Abbiamo messo in campo un investimento senza precedenti, tenete conto che normalmente è attorno a un milione e mezzo di euro all'anno, quest'anno abbiamo 5,8 milioni da investire sull'estensione della rete ciclabile, questo è molto importante perché ci permette di ampliare complessivamente la rete urbana di Bologna, quindi di contribuire all'estensione della bicipolitana bolognese, ma anche di offrire una possibilità concreta per fare fronte ai modi di muoversi nella città che sappiamo dovranno un po' cambiare nel prossimo futuro anche per effetto dei cantieri, quindi sicuramente un'offerta che si rivolge ai ciclisti urbani abituali, ma anche un invito a considerare le due ruote come un mezzo per spostarsi a Bologna. Quali sono gli interventi principali? Faccio fatica a dirlo perché gli interventi sono tantissimi e soprattutto lo spirito è quello di completare il più possibile la rete lungo le radiali, che sono le strade di ingresso al centro di Bologna e quelle più frequentate da tutti e anche dai ciclisti, logicamente, ma anche di aumentare le connessioni trasversali in modo che la bicicletta e tutta la micromobilità elettrica, naturalmente anche i monopattini, possano diventare dei mezzi utilizzati per i piccoli spostamenti anche dentro i quartieri. Assessore, in alcune grandi città europee stanno iniziando, penso a Parigi, ad Oslo, a vietare le auto nei centri urbani, addirittura le auto a scoppio in tutta la città. Bologna, che ambisce ad essere emissioni nette zero al 2030, ha in programma nel futuro qualcosa di simile? Bologna ce l'ha già nel PUMS, la zona da ZTL ambientale. Abbiamo già cominciato a vietare alcuni tipi di auto, di mezzi, a seconda appunto del livello emissivo. Questo provvedimento lo stiamo assumendo in maniera graduale, ma di fatto ci stiamo allineando a quelli che sono i provvedimenti assunti in altre città, in Italia, in particolare a Milano. Abbiamo anche un progetto di Città 30 in questo mandato, che vuol dire estendere il limite dei 30, che per essere c'è già in moltissima parte della città, e lo dico perché molti secondo me non guardano i cartelli, ad altre parti della città, in modo da avere soprattutto nei quartieri un modo più lento di muoversi e più attento a tutti gli utenti della strada. La sicurezza aumenta se ci guardiamo intorno e se prendiamo atto che non soltanto le automobili sono le padrone dello spazio stradale. Prima si parlava di piste, corsie, un esempio in via Saragozza c'è la corsia ciclabile, c'è un impegno da parte dell'amministrazione di aumentare i controlli della polizia, è sempre piena di macchine in seconda fila, quindi di base poi non si può usare. Ma allora, non è proprio sempre piena di macchine, diciamo che i maleducati che parcheggiano in seconda fila sono numerosi e probabilmente non si rendono conto del danno che arrecano complessivamente alla città. Noi facciamo dei controlli, ma è molto difficile cogliere le persone nel momento in cui compiono questa infrazione, no? Perché spesso sono soste che durano poco tempo. Sicuramente questo è un problema su cui dobbiamo migliorare, ma devono in primis migliorare i cittadini nei loro comportamenti, ricordandosi che la bicicletta è un mezzo che ha il diritto di stare sulla strada, di condividere la strada insieme alle auto, insieme agli autobus e anche ai pedoni. Soltanto in questo modo si riesce ad incrementare l'uso della bicicletta, perché se costringiamo i ciclisti a fare percorsi più lunghi e quasi panoramici per andare a scuola o al lavoro, in pochissimi la utilizzeranno. Stiamo dimostrando che questo è un modo efficace, i dati ci danno ragione, dicono che l'uso della bicicletta a Bologna è aumentato, e quindi chiediamo a tutti pazienza e tolleranza, perché la strada è di tutti.